del mare e la certezza del cielo, il muto intervallo che si palesa di giorno in giorno, in viola digiuna di dolci parole che non sanno come finire. Ascolta gli insulti di chi non sa, fra i vermi decomposti di una scatola chiusa, condannato alla felicità. Non c'è neanche una scusa per cantare una lacrima, tutta la voglia non basterà per prendermi una pausa lunga tutta un'eternità. Il giallo riempie i tuoi sorrisi, fra denti che hanno morso forse troppe occasioni, ti donano serenità. Ma per quanto ci provi quella merda non andrà via. Il verde riposa sulle pianure, aspetta che qualcuno venga lì a costruire un'altra assurda fabbrica, per sfornare qualcosa che al più presto si butterà. Condannato alla felicità, non c'è neanche una scusa per contare una lacrima, tutta la voglia non basterà per prendermi una pausa lunga da un'eternità. Prendermi una pausa lunga tutta un'eternità.